Letture di Radio 24. Spesso si accusano i blog e i social network di essere una terra di nessuno, dove vengono costantemente violati i diritti d'autore. Il fenomeno Tumblr, invece, esprime l'idea di condivisione, una specie di socialismo creativo, come lo definisce Angelo Flaccavento in un articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista Studio. Social network, blog, microblog e via discorrendo sono il trionfo della prima persona singolare. Se ci passate la banalità, spostato dal materiale all'immateriale, il problema è infatti sempre quello: scolpire l'io, rendendolo sociale. Il magma della rete, realtà parallela nella quale tutto può avvenire perché si può essere ogni cosa, ha insieme espanso e contratto i confini dell'annosa questione, fornendo gli strumenti per risolverla o almeno tentare di farlo. Lo streaming continuo della fiction digitale impone una nuova forma di iperrealismo che esclude tutto ciò che sta fuori dallo schermo. Basta con la mimesi, la coerenza, la sospensione dell'incredulità, le verità adamantine. Frammentazione impazzita e cangiantismo spinto paiono gli unici strumenti atti a definire se stessi. Eh sì, ora che si può avere facile accesso a tutto, nella rapidità fulminea di un click, persino la cronologia, assoluta e personale, è stata costituita dal presente e dalla compresenza continui. Io sono tutti, è lo slogan silente, che alla peggio può anche voler dire io non sono nessuno. Identità, si diceva. Altro che es, ego e superego, ci vuole un gran lavoro di post-produzione. Un'attività curatoriale mica da ridere per autodefinirsi nel mondo virtuale. In questa prospettiva, i blog falliscono. Troppo verbosi. Facebook, del resto, sa di becero, percorso com'è dalla doppia pulsione del pettegolezzo e dall'esibizione plateale, mentre Twitter è cicaleccio rimbombante. Tumblr, incalzante e tutto immagini, serve assai meglio allo scopo. Lanciata nel 2007 a New York da uno sbarbatello di nome David Karp, questa piattaforma per microblogging sta conoscendo un successo inatteso, al punto tale che varie case di moda hanno scelto di canalizzarci parte della comunicazione digitale. Persino Stefano Gabbana ha il suo Tumblr, a metà tra diario e pubblicità. Se c'è arrivato lui, potrebbe addirittura essere l'inizio della fine. Cos'è esattamente Tumblr e come funziona? Si tratta insieme di una community e di uno strumento, semplice all'uso, personalizzabile ad libitum, del tutto anonimo. Scelto un nom de guerre, ci si può comodamente sparire dietro, in ossequio al vecchio detto secondo il quale un uomo che indossa una maschera, digitale certo, è un uomo che dice la verità. Su Tumblr i post sono principalmente immagini, foto, video, slideshow. La particolarità è che ciascun user può ripostare gli elementi che apprezza attraverso il processo del reblog. Ogni post, in nota, mantiene traccia dei singoli passaggi, creando fili invisibili all'interno del network. Entrati in un Tumblr, si zompa quasi subito al successivo e a quello dopo, seguendo le traiettorie imperscrutabili dei reblog, per trovarsi alla fine irretiti in un magma vischioso di rimandi, specchiature, moltiplicazioni, in un Big Bang pulsante, versione pop. Tutto in Tumblr è parcellizzato fino al più esasperato particolarismo, ma allo stesso tempo tutto si interseca senza distinguo, in un simultaneismo visivo e concettuale, senza precedenti. Dice Straccetti, architetto, che manterremo anonimo perché in Tumblr usa così. Spesso non sai chi c'è dietro un nome o un titolo. È un flusso continuo, un passaparola che si struttura seguendo i tuoi interessi specifici. Mi piace quando qualcuno che vive dall'altra parte del mondo inizia a seguirmi. È il potere della rete. Lo spazio è libero, ma la regola universale è citare sempre le fonti. Prevale l'aspetto di esperimento curatoriale. Ogni persona definisce e ridefinisce ogni giorno le proprie scelte, andando a pescare in un bacino infinito. Le fa eco Dedicated To. Mi piace poter raccontare la mia estetica senza filtri, accostando pornografia becera a pezzi d'arte, sangue e santità, sperma e tatuaggi. Partito come un diario, Tumblr è per me un esperimento di sovraesposizione personale. Aggiunge Nick Wooster, il cui Tumblr ha raggiunto 1000 followers solo il giorno del lancio. Il bello è proprio nella condivisione delle risorse, che è l'esatto opposto del mondo vero, dove possediamo marchi di fabbrica e idee. Nel mondo di Tumblr, invece, aspetti di vedere chi risponde, riutilizzando le tue immagini. Lusinga e soddisfazione sono tutte nel reblog. Wooster tocca il nodo vitale. Troppo spesso il web viene accusato di essere l'anda del no copyright, terreno di approfittatori. Nella sua ingenuità vitale, Tumblr esprime invece una necessità di condivisione, visiva e concettuale, che non si registrava da un pezzo. Una sorta di socialismo creativo, nel quale più si dà, più si è se stessi. È un'etica estetica, solidale e scabra, avulsa dal mondo reale, che però è sempre lì, pronto all'agguato e alla capitalizzazione. Perché ci si può tranquillamente rifugiare nella virtualità di Tumblr, come in Tron, e vivere di ricerche e riblog, ma ad un certo punto arriveranno, se non lo stanno già facendo, quelli della moda, i pubblicitari, i commercianti, e faranno man bassa di idee e ispirazioni, rubando e rovinando, senza citar le fonti. Poco male, per allora l'azione, quella vera, si sarà già spostata altrove. È il flusso della creatività assai diverso dai percorsi del guadagno. In questo senso, la rete ancora è uno strumento rivoluzionario per democrazia e possibilità, mentre la questione identità rimane aperta e irrisolta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Flaccavento «Siamo tutti curatori, Vertigine Tumblr», dal quarto numero della rivista Studio. In un editoriale pubblicato su Panorama, Annalena Benini racconta la violenza degli indignati vista con gli occhi di una bambina. La bambina non voleva saperne di dormire dopo una pagina di compiti di prima elementare. Era troppo eccitata per quello che succedeva sotto le nostre finestre. Il corteo, le bandiere, i palloncini, i camioncini con le scritte, i megafoni, le canzoni. Era convinta, e per qualche minuto l'ho sperato anch'io, che fosse una festa. Ma i bar e i negozi tiravano giù le saracinesche. Avevo fatto solo in tempo a comprare il latte. Avevo dovuto insistere con il negoziante perché mi aprisse. Ed ero tornata a casa in mezzo a vetri spaccati e fumo arancione alle 2:30 di pomeriggio. A un certo punto mi ha chiesto «Perché urlano? Fuori! Fuori!» Lo striscione con violenza proletaria era troppo difficile per lei. Ho dovuto dirle che volevano un mondo migliore, ma stavano in piedi sui cassonetti a saltare e lanciare roba, prendevano a calci i portoni, distruggevano la vetrina del supermercato, spaccavano quella della banca, devastavano il negozio per animali con dentro tutte le cose a un euro, dove c'è una signora anziana, piccola piccola, che cura gli uccellini feriti e che mia figlia adora. Lei stava zitta e guardava giù. Poi ha detto... Il mondo diventa più bello se si mette a posto, non se si rompe tutto. Non ce l'hanno loro la maestra che glielo dice? No, amore, però potresti provare a spiegarglielo tu, la prossima volta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, La violenza cieca vista dagli occhi di mia figlia, da Panorama del 26 ottobre.